2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata parleremo di ad blocking, cioè di quei sistemi che servono per bloccare la pubblicità. Io sono fortemente contrario a questi sistemi, poi spiegherò anche il motivo, però questa, non dico esplosione, comunque questa crescita nell'adozione di sistemi che bloccano la pubblicità, filtri che vengono installati sui computer e anche sugli smartphone, potrebbe creare, e già lo sta creando, un problema molto serio all'industria dei contenuti, quindi a tutti quelli che producono contenuti, quelli che noi leggiamo gratuitamente su internet, proprio grazie al fatto che vengono pagati dalla pubblicità. Ma se noi combattiamo contro questo sistema, significa che stiamo distruggendo quell'industria che produce i contenuti che noi poi andiamo a leggere, a guardare, e quindi insomma potrebbero esserci problemi. Faremo una chiacchierata molto approfondita, molto interessante. Questo è un problema di cui si comincia a discutere anche all'interno dell'industria della pubblicità, ma di fatto, visto che la pubblicità riguarda tutti noi, perché come dicevo paga buona parte di quello che utilizziamo su internet, è un problema serio. Allora, alcune notizie che riguardano il mondo delle automobili per iniziare. Questa settimana Tesla, che è un produttore emergente, un nuovo produttore di automobili, un'azienda molto giovane, produce un paio di supercar molto costose, macchine estreme elettriche, completamente elettriche, che come del resto ormai tutte le automobili sono guidate, controllate, gestite in buona parte dal software, ma ha una particolarità: questa è l'unica azienda nel settore automobilistico che aggiorna il software di queste automobili così come noi aggiorniamo il software dello smartphone. Tra l'altro, apro parentesi e chiudo subito una parentesi, parleremo di aggiornamenti all'interno delle nostre digital news, perché il problema degli aggiornamenti, soprattutto in termini di sicurezza, è un problema che colpisce il mondo dei computer, ma sempre più quello degli smartphone. Chiusa la parentesi. Allora, che cosa ha combinato questa settimana Tesla? Ha cominciato a rilasciare un aggiornamento software che attiva una funzione che si chiama Autopilot. Allora, prima di tutto si tratta di un aggiornamento, dicono i tecnici, over the air, cioè rilasciato via internet e scaricato dall'auto che è connessa alla rete di telefonia mobile o al wifi. Allora, visto che l'aggiornamento dura un paio di ore, consigliabile farlo mentre si è sotto wifi, consigliabile tra virgolette, visto che poi gli utilizzatori di Tesla ci sono anche in Italia, ci sono alcune macchine anche in Italia, ma sono molto pochi. Ma quello che ci interessa è quello che sta succedendo nel settore e che succederà presto anche per tutti noi. Allora, l'aggiornamento è rilasciato per il momento negli Stati Uniti e nelle prossime settimane arriverà anche in Europa. Al momento Tesla, appunto, come dicevo, è l'unico costruttore che fa questo aggiornamento software delle proprie automobili come fossero smartphone, e questa sarà un po' la regola dei prossimi anni. In una puntata recente abbiamo detto che nessun produttore lo fa, ma nessun produttore di quelli classici. Consideriamo Tesla ancora un produttore molto particolare perché ha tutta una serie di novità che il resto del mercato non propone. Poi è ancora un produttore molto piccolo, anche se sta crescendo a tassi molto interessanti. Allora, nello specifico, Autopilot che cosa fa? Permette all'auto di fare cose che abbiamo già visto su altre automobili, soprattutto di fascia alta, o altre che vedremo nei prossimi anni. Ad esempio, l'auto guida da sola, mantiene la corsia, se si mette la freccia e c'è lo spazio, l'automobile controlla che ci sia lo spazio necessario, l'automobile supera da sola, tutto fattibile oggi. Si ferma in coda, se uno è in città e c'è una coda, la macchina si ferma, riparte. Allora, tutto anche in modo automatico, anche se viene chiesto al pilota di mettere le mani sul volante, di prestare attenzione a tutto quello che accade sulla strada, ma la macchina può farlo anche in autonomia. Dicevo che alcune di queste funzioni sono già disponibili sui modelli più evoluti di altre case automobilistiche, soprattutto le tedesche, Mercedes, Audi, BMW presentano cose del genere. Elon Musk, parlando, Elon Musk è il fondatore di Tesla, è anche stato il creatore di PayPal, è il creatore di SpaceX. Insomma, Elon Musk è un guru della tecnologia e parla quando ci sono gli aggiornamenti in qualche modo di Tesla, è lui che parla, prende la parola. Ha detto: auto completamente autonome arriveranno sul mercato in circa 3 anni, e quindi questa è una prospettiva interessante. Però vedete, stiamo aggiornando il parco automobili, anche se stiamo partendo da una nicchia di mercato e non ce ne stiamo accorgendo, ma gli automatismi, tutti i sistemi di assistenza alla guida, in modo anche molto pesante, sono tra di noi. Ma che cosa ne pensa un altro guru della robotica e dell'intelligenza artificiale? Si chiama Colin Engle ed è fondatore di iRobot, che è un'azienda piuttosto famosa, produce robot per la pulizia della casa come Roomba, che si possono acquistare sul mercato. Questa è stata una delle prime aziende a produrre robot di questo genere, ci sono anche nelle case di molti italiani robottini che partono dalla propria stazione di ricarica, vanno in giro per la casa e puliscono la casa. Questa azienda produce anche robot militari e Colin Engle è uno, insomma, piuttosto esperto di questo settore. Sentite che cosa ha detto in un'intervista che ha realizzato Gianfranco Giardina proprio sulle automobili automatiche o a guida autonoma, chiamiamole così. The self-driving car is real. They work. Le auto a guida autonoma sono reali, funzionano, e cominceremo a vedere aree del mondo dove ci sarà richiesta di questo tipo di auto. Sarà un cambiamento del modo in cui ci spostiamo. You can imagine an Uber-like interface where you say, okay, at 5 o'clock I want to go from work to home. Possiamo immaginarci una interfaccia come quella di Uber, ad esempio, sulla quale potresti dire, ok, alle 5 portami dal lavoro a casa. Imposti tutto sul tuo smartphone e all'ora giusta la macchina lascia il parcheggio, ti viene a prendere e una volta a casa lei torna da dove è venuta. And the technology exists today to make that a reality. So it's more about the business model, more about the laws and regulations and dealing with liability that need to be worked out. And la tecnologia esiste già ed è una questione di modello di business, di regole, di leggi e di responsabilità che determineranno il livello di adozione. Ma oggi abbiamo prestazioni nel settore delle auto a guida autonoma migliori e più sicure rispetto ad una persona che guida, e la tecnologia può fare esattamente quello che ho descritto. We have performance in the autonomous driving car industry that is safer than people driving and can do exactly the scenario I just described. E a proposito di leggi, di regole, l'abbiamo detto altre volte, le leggi saranno l'ostacolo più grande alla diffusione delle auto a guida autonoma, ma alla domanda chi è responsabile, punto interrogativo, se succede qualche cosa, allora la Volvo questa settimana ha dato una risposta molto chiara e direi definitiva: saremo noi responsabili di tutto quello che accade sui nostri veicoli, quindi se i veicoli vanno a sbattere i responsabili saremo noi. Lo ha detto Håkan Samuelsson, che è il presidente e amministratore delegato della Volvo, la società svedese che dal 2010 appartiene a un gruppo cinese, ha annunciato già da un po' di tempo un sistema chiamato IntelliSafe Autopilot che arriverà nel 2017, quindi poco più di un anno. Inizialmente sarà disponibile solo in Svezia, ma con questa postilla che ha aggiunto Samuelsson questa settimana: saremo responsabili noi, quindi il problema della responsabilità non si pone in questo caso. Allora sentiamo ancora Colin Engle sul livello di intelligenza artificiale raggiunto oggi dalle macchine in generale, dai robot in generale, perché un conto è guidare, un'operazione tutto sommato abbastanza semplice, quasi tutti gli umani sono capaci di guidare, un conto è fare tante altre azioni molto più complesse, alcune di queste azioni nemmeno gli umani sono capaci di farle tutte, solo magari i più bravi, solo quelli che studiano, si specializzano. Robots today are at the most primitive levels of intelligence. Robots can be expert in very narrow areas. I robot oggi sono ad un livello primitivo di intelligenza artificiale. I robot possono essere esperti in aree molto limitate. Possiamo usare motori di ricerca come Google, ad esempio, per avere risposte su pezzetti di informazione e sembrare smart. Ma non abbiamo in realtà una comprensione profonda di tutte queste informazioni. Quindi questa idea di vera consapevolezza, di vera comprensione, è in realtà molto limitata. Real cognition, a real understanding of what's going on is very limited. In time, could this change? Perhaps, I think it will take a very long time. Col tempo questo cambierà, forse, e ci impiegherà molto tempo. Penso che sicuramente il futuro abbia delle interessanti domande a cui dobbiamo rispondere. In 3 to 5 years, robots have the potential of understanding the homes that we live in enough to help this concept of a smart home become reality. In 3-5 anni penso che i robot abbiano le potenzialità di comprendere la casa in cui viviamo abbastanza per fare diventare realtà il concetto di smart home, cioè di casa intelligente, case che sanno abbastanza di se stesse per fare nel modo corretto cose tipo riscaldare, illuminare, pulire e magari alcuni altri prodotti robotici per aiutarci a tenere in ordine la casa in modo più facile, ma dobbiamo spingerci molto oltre per essere preoccupati da un livello di intelligenza umano. You have to go well beyond that before you start worrying about human level intelligence. Questa era la voce e il parere autorevole di Colin Engel, che è un guru della robotica e dell'intelligenza artificiale, fondatore di iRobot, che produce sistemi per robot per la pulizia della casa, ma anche robot militari, cose più complesse che un robottino che pulisce casa nostra. Lo ha intervistato recentemente Gianfranco Giardina, che spesso sentite anche a 2024, sarà con noi la prossima settimana. E la prossima settimana vi segnalo che ci sarà l'edizione di Milano di SMAU, da mercoledì 21 a venerdì 23 alla Fiera di Milano City, quindi la versione cittadina della Fiera di Milano, non quella gigantesca e quella dove si cammina per chilometri a Rho, Fiera Milano City. Ci sarà SMAU, edizione di Milano, ci sarà anche Radio 24, per tutti e 3 i giorni io sarò lì, avremo uno studio, ci saranno anche altre trasmissioni che trasmetteranno da SMAU. Noi realizzeremo una puntata speciale di 2024 in onda giovedì sera e poi la classica puntata del venerdì. Quindi io sarò lì già mercoledì, ma giovedì e venerdì puntate speciali di 2024 registrate al pomeriggio all'interno dello studio che avremo a SMAU. Ci sarà anche Gianfranco Giardina nella puntata del venerdì. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Adesso alcune notizie in breve della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da quella che è probabilmente la notizia più importante della settimana per l'industria IT, ovvero l'annuncio fatto da Dell, che assieme al fondo di private equity Silver Lake rileveranno per 67 miliardi di dollari EMC. Si tratta della più grande acquisizione pura mai avvenuta nel settore tecnologico. Allora, ricordiamo che EMC, scritto EMC, produce sistemi di archiviazione e analisi dei dati e tutti i servizi correlati. Sostanzialmente questo è quello che fa EMC, che controlla anche VMware, che è uno dei leader mondiali nei sistemi di virtualizzazione. In questo modo Dell si sposta sempre più sul mondo delle aziende e amplia in modo consistente la propria gamma di prodotti e servizi. L'azienda molto probabilmente sarà il numero uno nel settore IT quando verrà completata questa acquisizione, e il completamento dell'operazione è previsto per l'inizio del 2017. Sono positivi i nuovi dati Assinform per il mercato IT in Italia. L'associazione di Confindustria, che rappresenta le aziende del settore dell'information technology, registra un aumento del mercato dell'1,5% nel primo semestre 2015 e prevede una crescita per il 2015, quindi la crescita annuale dell'1,3%. Questi sono dati positivi dopo parecchi anni in cui il mercato invece scendeva, scendeva e scendeva. Twitter ha annunciato un taglio al personale, il primo maxi taglio nei 9 anni di vita del social network. 336 persone, l'8% del totale, perderanno il lavoro, avranno tutte delle buone uscite molto consistenti. L'obiettivo dell'azienda è diventare più snella, guadagnare utenti per aumentare i ricavi che arrivano dalla pubblicità. È una gara molto complicata, molto difficile, perché a dispetto della popolarità gli utenti di Twitter sono solo 316 milioni in tutto il mondo, mentre Facebook ha superato 1,5 miliardi e Instagram ha da poco tagliato il traguardo dei 400 milioni, giusto per fare un paio di esempi. Parliamo di smartphone. Il primo smartphone al mondo che verrà aggiornato ad Android 6.0 Marshmallow, che è il nuovo sistema operativo di Google, il nuovo Android, sarà l'LG G4. Allora, naturalmente, a parte i Nexus, i nuovi Nexus che escono già con questo nuovo sistema operativo, che sono gli smartphone di Google. Il rilascio di questo nuovo sistema operativo per LG sarà graduale, si inizierà dalla Polonia per arrivare ad altri paesi, compresa l'Italia, nelle prossime settimane. Si parla di un mese e mezzo, un grosso modo. La velocità con cui LG ha reso disponibile l'aggiornamento è forse dovuta alla collaborazione con Google. Ricordiamo che LG ha prodotto altri Nexus per Google, ma ha prodotto anche il nuovo 5X, e recentemente Google, un manager di Google, ha detto che LG è il migliore produttore di dispositivi Nexus con cui l'azienda ha lavorato. Quindi sicuramente un attestato di stima piuttosto pesante e importante. Allora, a proposito di aggiornamenti, sapete che gli aggiornamenti per il mondo Android, che è molto frammentato, sono uno dei problemi, e si sta cercando in qualche modo di risolvere questo problema. Oltre alla velocità di aggiornamento, c'è anche la frammentazione dei vari produttori che devono proporre gli aggiornamenti per i propri terminali, per i propri telefoni. Secondo una ricerca dell'Università di Cambridge, negli ultimi 4 anni l'87% dei dispositivi Android è stata soggetta ad almeno una vulnerabilità critica, e questo perché i produttori sono lenti o inefficienti nel fornire aggiornamenti di sicurezza per i propri modelli. Quindi l'aggiornamento, oltre che del sistema operativo, anche delle cosiddette patch di sicurezza, è un problema e rimane un problema. Secondo il giudizio dei ricercatori di questa università, dell'Università di Cambridge, le aziende più veloci negli aggiornamenti sono, allora, Google per prima, ma è ovvio perché controlla il sistema operativo, quindi è più veloce, ma quegli aggiornamenti finiscono solo sui Nexus. Comunque, con una valutazione su una scala da 1 a 10, la valutazione che gli esperti dell'Università di Cambridge danno a Google è di 5,2, quindi nemmeno altissima. Però il problema sono tutti gli altri. Allora, LG è la seconda più veloce con 4, Motorola 3.1, e poi tutti gli altri sono sotto il 3, quindi sono veramente bocciati. Samsung, Sony, HTC e Asus hanno tutti un giudizio inferiore al 3. Tra le notizie di questa settimana che meritano di essere sottolineate, una ricerca realizzata da Contact Lab. Contact Lab è un'azienda che si occupa di digital marketing, fondata da Massimo Fubini, che è stato anche ospite a 2024. Questa ricerca, che si chiama European Plus Digital Behavior Study, che Contact Lab fa già da alcuni anni, racconta come si comportano gli utenti in giro per l'Europa. E allora ci sono varie considerazioni che vengono fatte all'interno di questa ricerca, ma la più interessante, uno potrebbe dire scontata, poi però uno va a vedere cosa succede nella realtà di tutti i giorni, non è così scontata. Allora, entro il 2018 lo smartphone sarà il device, quindi il terminale primario da cui la popolazione italiana consulterà internet. Quindi un dato molto importante, il che vuol dire che se non tutto, buona parte di quello che si fa su internet deve essere pensato per lo smartphone, cosa che non capita sempre. Quante volte vediamo siti internet che non sono ottimizzati, oppure servizi che non funzionano molto bene, non ci sono le applicazioni per smartphone, eccetera, eccetera. Adesso parliamo di ad blocking. Questo è un trend, un fenomeno di cui si sta parlando molto recentemente, considerando che la pubblicità paga buona parte dei servizi che utilizziamo su internet, sia l'informazione che spesso è gratuita, nella stragrande maggioranza dei casi viene pagata dalla pubblicità. Sapete che tutto il mondo dell'editoria sta vivendo una trasformazione molto pesante, le cui dimensioni non sono ancora chiare, i cui confini, il nuovo perimetro non è ancora chiaro. Comunque è una trasformazione molto pesante e molto forte, con tutta una serie di rischi. Se noi utenti adottiamo sistemi per non guardare la pubblicità, per eliminare la pubblicità che è quella che paga questi contenuti, che cosa potrebbe succedere? Ma questo è uno dei tanti problemi e non è il solo. Ne vogliamo parlare con una persona che è sempre molto attenta ad osservare i fenomeni che accadono nel mondo della pubblicità, ma in generale dei media digitali, Nereo Sciutto, che è il presidente di Web Ranking. Bentornato a 2024, Nereo. Grazie. Nereo Sciutto è il presidente di Web Ranking e voi vi occupate di, una volta si diceva, ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca, giusto? Sì, una volta sì, quando è iniziato... Oggi come si dice? Alla stessa maniera, però si è aggiunta tutta la parte di media, quindi di... Google è nato nel 1998, il media AdWords, la pubblicità su Google è del 2003, Facebook è probabilmente successivo. Diciamo che oggi sul web si fanno cose che 10 anni fa non esistevano. È cambiato il mondo. Tutto. Quindi è che è molto più complicato. Sì, ed è anche complicata la pubblicità, c'è molta tecnologia. Una volta era più naive, più pionieristico, adesso invece la comunicazione digitale è diventata estremamente complicata anche dal punto di vista tecnico. Molto complicato. Tu ti occupi di pubblicità, di fatto, di questo mondo molto complicato, molto complesso. Ogni tanto mi fanno vedere la mappa di tutti i player della pubblicità su internet ed è una babele, un labirinto, una cosa incredibile. Cioè i player si sono, a causa o grazie alla tecnologia, sono diventati decine, centinaia. Esatto, anche troppi. Infatti la domanda tipica del cliente o di quello che li deve acquistare o rivolgersi a loro per pianificare è sempre come faccio a distinguerli, come faccio a capire. No, è una babele e te lo confermo. E anche il fatto che ci siano mercati dell'Est Europa o Estremo Oriente dove il costo del lavoro e le teste sono più disponibili e il costo del lavoro più basso ha fatto sì che molte aziende siano nate anche in posti dove noi non ce lo saremmo aspettato fino a qualche anno fa. Ti faccio fare l'ultima considerazione su questo mondo, poi parliamo di ad blocking e di tutto quello che comporta questo fenomeno. È vero che stiamo parlando di tecnologia e con la tecnologia stanno cambiando molte cose, anzi forse cambieranno molto nei prossimi anni, ma è ancora un lavoro ad alta intensità di opera umana, giusto? Sì, come sempre cambia il tipo di lavoro che facciamo, quindi viene automatizzato quello che è manuale, che è stato manuale in passato, che è ripetitivo. Sì, sì. Oggi le persone, è la stessa cosa che è successa con le macchine a controllo numerico nell'industria pesante, ad esempio i robot che vengono utilizzati per costruire le auto. Sì. Oggi le richieste sono verso specializzazioni che sono utilizzare le macchine e programmare le macchine e verificare il funzionamento delle macchine. Quindi oggi quello che accade è che c'è ancora tantissimo lavoro, ma per professionalità che prima non esistevano e che paradossalmente l'università non è ancora riuscita a creare. Per cui lavori nuovi, è di questi giorni la ricerca che dice che più della metà delle madri italiane non sanno raccontare che lavoro fa il figlio. Ah certo, sì sì. Nella nostra industria questa percentuale è ben più alta, le professionalità cambiano e probabilmente noi dobbiamo essere come paese molto veloci ad adattarci perché i servizi diventeranno predominanti rispetto alle attività manuali. Sì, sì. È un settore dove c'è lavoro. Tantissimo. Il paradosso è che c'è tantissimo lavoro e pochissima offerta. Quindi la maggior parte delle aziende di questo settore vorrebbero assumere e non riescono. Pochi professionisti. Sì, sì. Allora, ad blocking, diciamo subito che cos'è. Allora, l'ad blocking è una modalità attraverso la quale, scaricando un piccolo software da mettere sul computer o un'app da caricare sul cellulare, posso impedire ai siti web che sto navigando di mostrarmi la pubblicità. Quindi la pagina web del sito viene ripulita e rimane soltanto il contenuto, che in un caso di una testata giornalistica è l'articolo e qualche foto a corredo. Noi ne parliamo perché questo è un fenomeno di cui si sta parlando molto. In alcuni ambiti, diciamo tra i professionisti, si tende a volte a non parlarne, cosa sbagliatissima penso. Sta crescendo molto l'utilizzo di questi sistemi tra gli utenti, anche italiani, comunque mondiali. Cioè, abbiamo anche alcuni dati molto freschi. Sì, è appena uscita una ricerca molto interessante creata da Adobe, da un'azienda inglese che si chiama PageFair, che racconta i primi numeri autorevoli su quanto vale questo fenomeno. E persino in Italia, dove fino a ieri il tema dell'ad blocking era, se volete, abbastanza racchiuso in una comunità di geek, di smanettoni, di persone appassionate di tecnologia, sta cominciando a diventare un fenomeno di massa, nel senso che questa ricerca dice che quasi il 13% dei navigatori italiani usa un ad blocker, qualche sistema per bloccare la pubblicità. Esatto, e si parla di milioni di persone, perché il 13% della popolazione navigante italiana è una cosa che supera tranquillamente i 3 milioni di persone. Sì. Nel mondo sono tantissimi, e la cosa strana è che la crescita, per quello che sta diventando interessante parlarne oggi, la crescita anno su anno, 2015 su 2014, è stata di 44-45%, e la stima per l'anno prossimo che fanno quelli che hanno redatto lo studio è di un raddoppio, quindi di un fenomeno che è destinato a salire molto velocemente. Allora, questo sta già creando dei problemi e potrebbe creare dei problemi all'industria. Io sono tendenzialmente contrario all'uso di questi sistemi, perché dico sempre: la pubblicità è la moneta con cui si pagano le cose che noi vediamo su internet, per buona parte. Alcune le paghiamo, ma tendiamo sempre a non voler pagare. In questa puntata, ad esempio, parliamo di Wikipedia anche, e pensate che solo l'1% delle persone è disponibile a donare qualche soldo a Wikipedia. Quindi io tendenzialmente dico no. La pubblicità va vista, perché la pubblicità poi paga chi produce i contenuti. Però c'è un problema, che la pubblicità a volte viene percepita come troppo invasiva, e quindi immagino che questo sia il motivo principale per cui molte persone decidono di utilizzare questi filtri. Sì, in effetti è giusto. È un tema che non ha un vincitore o un vinto, un parere determinato e migliore di altri. Da una parte, gli editori negli anni hanno caricato forse un po' troppo pubblicità, e di qualità non altissima. Sì. Questo è conseguenza non tanto del mondo dei publisher, degli editori, ma probabilmente è colpa anche del fatto che il mercato della pubblicità su internet non è ancora così maturo come vorremmo, per cui caricano molta pubblicità perché le aziende sono disponibili a pagare molto poco per questa pubblicità. Gli investitori pubblicitari, quelli che pagano per la pubblicità. Esatto, quindi arrivano pochi soldi per ogni banner che noi vediamo su una pagina, e quindi l'editore, per riuscire a pagare gli stipendi dei giornalisti e i costi di struttura, tende a caricarne di più. Sì. A differenza della carta, se avete presente la periodica, che durante l'estate, ad esempio, la periodica femminile tende a crescere come dimensione, è come se la stessa rivista fosse più alta, perché c'è molta più pubblicità in un periodo in cui magari d'estate si può leggere di più, o durante il cambio della stagione della moda. Sì. Su internet non c'è la possibilità di aumentare le pagine di una rivista. Le pagine sono quelle che noi vediamo navigando, per cui l'unico sistema di piazzare più pubblicità all'interno di quelle pagine non è di aumentare le pagine viste, perché se io sto guardando due pagine di un sito, guardo quelle due lì, non ne posso guardare sei o sette. Sì. È quello di caricare più pubblicità in uno spazio più piccolo. Sì. Sì, diciamo, uno può fare pagine all'infinito, però il problema è sempre quanto tempo io riesco a dedicare a quelle pagine. Esatto, perché la metrica di vendita di questa pubblicità è per numero di volte che vedo una pagina o un banner. Sì. Quindi la esplosione, perché possiamo parlare di esplosione in questi ultimi mesi, di sistemi che bloccano la pubblicità, sta creando un grave danno anche agli editori in tutto il mondo. No, gli editori sono una parte che è messa in grossa crisi da questa modifica. Lo dicevi tu prima, il rischio è che un'intera industria venga messa fortemente in discussione, perché mentre su carta o in televisione, pensate alla carta, non ho una persona che mi strappa via le pubblicità e mi consegna il giornale depurato. Su internet non sto pagando una copia, non ho nessun altro modo di contribuire alla qualità dell'informazione che mi arriva, alla quale io sto cercando di accedere. Per cui devo in qualche maniera, mentre navigo, grazie alla pubblicità, pagare tutti i conti di un editore, soprattutto dei full digital, di quelli che stanno soltanto su internet. Sì. Quelli che basano esclusivamente le loro revenue non sugli abbonamenti, ma esclusivamente sulla pubblicità. E quello che accade oggi è che siamo di fronte a una specie di guerra, per cui non sappiamo ancora chi vincerà e dove si troverà l'equilibrio. Però quello che accade è che oggi come oggi, se questa percentuale dovesse raggiungere delle cifre, ad esempio come in Germania, dove un tedesco su quattro oggi usa un adblocker, quindi si parla di molti milioni, sì, di persone, gli editori fanno molta più fatica a monetizzare le loro pagine e quindi a pagare gli stipendi ai giornalisti. Questo porta necessariamente, se ci pensate, a un abbassamento della qualità del prodotto giornalistico, quindi dell'informazione a cui noi accediamo. Certo, quindi non solo il passaggio da un mondo dove noi pagavamo per avere l'informazione, oggi non lo facciamo quasi più, poi ci sono anche gli editori che riescono invece a monetizzarlo vendendo direttamente l'informazione, oggi stiamo passando a un mondo che è pagato dalla pubblicità, ma anche la pubblicità viene fortemente messa in discussione da questi sistemi. Quindi capite quanto una intera industria, tra l'altro molto importante per la vita di un paese, perché io continuo a dire che, ma non lo dico solo io naturalmente, una buona informazione di qualità serve per far funzionare bene un sistema economico, un paese a livello democratico, civile, sociale. Hai citato la Germania, la Bild, che è uno dei più noti settimanali periodici tedesco, tra i più venduti in Europa, come ha reagito all'aumento del blocco della pubblicità proprio questa settimana? Beh, dal punto di vista, ne abbiamo parlato tante volte, la tecnologia in aiuto a queste cose. La Bild è riuscita a intercettare le persone che accedevano alle sue pagine utilizzando un adblocker. A quel punto, a differenza di alcune testate americane che semplicemente pubblicavano un riquadro al posto del banner eliminato con scritto "ti pregheremmo di sospendere l'uso dell'adblocker perché... perché vorremmo che tu capissi l'importanza di, quindi la parte educativa", la Bild semplicemente ha alzato un muro dicendo: tu stai usando un adblocker, io non ti faccio accedere alla pagina, quindi se vuoi avere accesso a qualsiasi contenuto che noi pubblichiamo online, stacca l'adblocker, altrimenti puoi continuare a navigare il sito della Bild senza pubblicità e paghi pagando 2,99 euro al mese. Bisognerebbe sapere quanti poi si sono trasformati in abbonati. Pensi che sia la soluzione, cioè dire: se tu usi l'adblock non ti faccio vedere i contenuti? Allora, non è la soluzione, ma è una soluzione. Quello che ammiro della Bild e del suo editore Axel Springer è che ha reagito molto velocemente a un fenomeno e ha fatto quello che viene chiesto oggi all'editoria in un periodo difficile: non di lamentarsi, ma di capire che viene messa in discussione per certi versi la sua sopravvivenza, e inventare, costruire, agire con modelli di business diversi, con modalità attraverso le quali proporre il contenuto in maniera diversa. L'idea è, in tempi difficili, con scadenze come queste, con queste rampe di crescita così veloci nell'adozione degli adblocker, sono richieste decisioni difficili e anche creative. Diciamo che è sicuramente una buona occasione per l'industria editoriale in senso lato per ripensarsi, probabilmente dicendo: bisogna fare meno pubblicità pagata di più. Io lo dico anche per la radio, ad esempio, sono un grande fautore delle fasce orarie sponsorizzate. Difficilissimo, io non sto criticando nessun sistema, perché chiaramente passare da un modello ad un altro è una delle cose più difficili, però bisogna farlo. Sì, serve comunque un accordo, perché il publisher, l'editore, non può influenzare il prezzo molto facilmente, per cui diciamo che l'intero sistema verrà messo in discussione sia da chi vende pubblicità oggi, chi la pubblica sulle proprie testate, e anche coinvolgere chi la sta comprando. Sì. Senti, ci sono dei network che hanno messo insieme alcuni servizi di ad blocking, un'app di ad blocking, un servizio web di ad blocking, che si sono messi insieme e addirittura hanno detto, adesso non so quanto etico possa essere o quanto interessante possa essere, dicono: noi blocchiamo la pubblicità in generale e facciamo passare solo alcuni tipi di spot, quindi di fatto lucrando anche in questo sistema. Allora, è molto interessante, perché alcune grandi aziende che producono al blocker si sono posti il problema sia di come fanno a sopravvivere, perché questi tool sono in larga parte gratuiti, dall'altra parte hanno provato a dire al mondo che la loro funzione era socialmente utile. Quello di uccidere, di minare alle basi la sopravvivenza di un settore non è sicuramente una missione socialmente utile. La loro idea è stata: abbiamo reagito a un mercato pubblicitario troppo invasivo e abbiamo proposto un sistema che limitasse. Per cui alcuni di questi grandi player hanno creato una sorta di alleanza dove si sono accordati su lasciar passare quella pubblicità che fosse in qualche maniera certificata o rispettosa di alcune regole di tipo ad esempio non troppo frequente, quindi non troppo invasiva, cioè non con una posizione predominante all'interno dello schermo. Questo, mentre è molto facile farlo su desktop, quindi su uno schermo grande, diventa molto molto difficile riuscire a capire come farlo su un mobile, su un device, su uno smartphone, dove per quanto piccola possa essere una pubblicità è comunque invasiva. Certo, c'è talmente tanto poco spazio, esatto, che non sai dove metterla. Certo. Poi girano voci più o meno confermate del fatto che diverse, dato che stiamo parlando di aziende tutto sommato molto piccole, perché chi produce questi ad blocker sono aziende che comunque sono partite dalle idee di qualche programmatore. Sì, ho parlato con dei ragazzi del Politecnico di Milano che hanno fatto un'app quasi per gioco. Esatto, sì, perché la tecnologia, io sono un ingegnere, la tecnologia per realizzare un ad blocker è molto semplice, non è scienza missilistica, è roba fattibile. Infatti ce ne sono tantissimi. La teoria in quel caso è che questo genere di aziende potrebbero essere francamente comprate e smantellate dai più importanti publisher del mondo, cioè nel senso stanno andando a toccare un'industria che è molto più grande di loro. Quello che sta accadendo in effetti è che alcuni di questi soggetti stiano vendendo le proprie aziende. E in alcuni casi non dichiarano, non si è ancora riuscito a capire a chi, quindi sarà questione di settimane, ma usciranno queste informazioni. In altri casi vengono approcciati dai grandi player della pubblicità, stiamo parlando dei Google, dei Facebook, degli Amazon, degli eBay, per cercare di capire come adattare la loro pubblicità in modo da poter passare questi filtri che queste applicazioni, queste alleanze di applicazioni hanno approvato. Per creare quelle che vengono chiamate le whitelist, che sono delle liste che ti lasciano passare. Sì, in questo caso è più che ad blocking, sarebbero ad filter, esatto. Filtri per la pubblicità. Esatto, c'è un filtro che può essere cattivo, medio o buono, bonario. Sì. Sì. E quindi diciamo che l'industria può reagire cercando di avvicinarsi alle richieste di questi filtri. No? Sì, sì. Infatti, facendo pubblicità meno invasiva, anche più bella. Infatti l'industria deve fare anche, ha fatto autocritica. Uno degli organismi più importanti del pianeta in termini anche di standardizzazione dei formati è quello che in Italia si chiama IAB, l'Interactive Advertising Bureau, che negli Stati Uniti è una vera e propria potenza, nel senso che viene finanziato da tutti i principali publisher, dai principali operatori della pubblicità, sia lato domanda che lato offerta. Dopo un bel periodo di silenzio sul tema, il fenomeno è diventato talmente importante che lo IAB americano ha appena dichiarato di aver fatto una sorta di autocritica e pubblicato un disciplinare dove spiega ai propri associati e chiede di divulgare delle best practices, delle regole di buona condotta relativamente al fatto di costruire delle applicazioni che siano ad esempio non troppo invasive in termini di frequenza. Mi spiego meglio. Quando navigate su un sito di e-commerce, il prodotto con una tecnica che si chiama retargeting vi segue quando navigate su internet e dopo un po' arrivate a un punto che magari comprate il prodotto per sfinimento. La cosa certo, perché se tu cerchi il frullatore, magari vai su un altro sito e ti appare la pubblicità del frullatore. Esatto, il problema è che chi ha utilizzato queste tecniche, la tecnica non è sbagliata, il problema è che la pressione pubblicitaria che ti dà questa tecnica è troppo alta, sì. Fino al punto che ti trovi la pubblicità del frullatore anche dopo averlo comprato. Ah certo, sì sì. Quindi quello è un sistema, c'è la tecnologia pubblicitaria, la usiamo tranquillamente per togliere dalle liste qualcuno che ha già acquistato il prodotto, anche perché stai sprecando soldi, stai comprando pubblicità su una persona che non lo ricompra il frullatore. Esatto, certo. Che l'ha appena comprato. In questo caso, diciamo, l'industria pubblicitaria sta cominciando a ragionare non soltanto di formati, ma anche di pressione e di frequenza del messaggio. È come se guardando la televisione vedeste lo stesso spot 4 volte consecutive, sì. Una follia pura, arrivato ad odiare il prodotto. Per cui è sano che comunque, al di là di tutto questo grosso grossa esplosione che c'è stata nell'industria, è sano che comunque ci sia autocritica e io la sposo. Come usciremo da questa cosa non è ancora definito. Sì, bisogna trovare un equilibrio che effettivamente è piuttosto difficile. Tu pensi che sia realizzabile l'aumento dei prezzi pubblicitari su internet? Perché effettivamente su internet la pubblicità costa meno, cioè raggiungere lo stesso utente costa meno, ed è questo insomma, è uno dei grandi problemi dell'industria. Sì, poi ti dico qualcosa di più che magari molti non sanno. La pubblicità costa, la stessa pubblicità, lo stesso prodotto costa ovviamente in maniera molto diversa in paesi diversi. Sì. Questo perché non tanto perché l'utente, il cliente di una casa automobilistica in Germania sia probabilmente più valutato di più di quello che c'è in Grecia o in Italia, ma perché c'è un meccanismo dietro ogni pubblicità, c'è un meccanismo ad asta. Visto che lo spazio è limitato dentro la pagina dei risultati di Google, è limitato dentro la l'home page del Corriere della Sera ed è limitato dentro l'home page della Bild. Mm-hmm. Le aziende, per riuscire ad acquistare quegli spazi, fanno delle offerte. Ci sono dei marketplace digitali come quelli della borsa, dove l'editore mette a disposizione spazio proprio in tempo reale, quel banner per quell'utente in quel momento, e qualcuno la vuole comprare. Ci sono degli indicatori, ad esempio i costi per click delle keyword su Google, che ti riescono a dire, sulla base di quanto crescono nel tempo, quanto maturo è un mercato. Ad esempio, la stessa ricerca comprata in Italia ha un valore che è un terzo, un quarto, un quinto di quello che pagheresti la stessa ricerca in Germania o nel Regno Unito, che è il paese che in questo momento ha i costi per click più alti. Quindi la pubblicità costa già in alcuni mercati abbastanza. La cosa che mi spaventa è che non è in questo momento neanche quel prezzo sufficiente per abbassare la pressione pubblicitaria, per far vendere meno banner, più di qualità, pagati anche un po' di più. Cioè deve costare ancora di più. Deve costare ancora di più. E questo effettivamente è un problema. È un problema non solo per l'industria, ma anche per il consumatore. Perché se tutto il sistema fa sì che un settore, non dico scompaia, ma comunque si impoverisca molto, chiaramente il livello dell'informazione si abbassa, e lo stiamo anche un po' vedendo in questi ultimi anni, il consumatore se ne accorge, legge meno, e questo è un problema un po' per tutti. Sì, ti dirò, ci ho riflettuto un po' anche venendo qui, perché queste sono cose che stanno cadendo alla velocità della luce, non c'è niente di scritto. C'è una cosa interessante che mi è venuta in mente, che se volete è sociologia dell'informazione. Quando molte testate per sopravvivere e fare un prodotto di qualità, noi parliamo di testate perché stiamo parlando di publisher che sono legate alle informazioni, ma in realtà pensate a questa cosa qui legata ai siti di viaggi, legata a chi ti racconta se il cellulare A funziona meno bene o male del cellulare B, chi ti insegna come installare un software sul computer. Nel senso, stiamo parlando di una serie di editoria che non è quella dei grandi quotidiani della periodica, è un'editoria che ha una coda lunga di piccole realtà che si mantengono faticosamente con gli introiti pubblicitari. Comunque, all'interno di questa industria, quelli che fanno qualità, quelli che cercano di dedicare più tempo e attenzione a scrivere qualcosa che abbia un valore, dovranno necessariamente passare a un sistema dove si paga anche qualcosa per riuscire ad accedere a quel genere di informazione. Lasciamo stare che in Italia il fatto di pagare qualcosa che è sempre stato gratis è una delle cose che per l'italiano medio sono più difficili. In altri mercati, lo vediamo anche negli Stati Uniti, si è generata una polarizzazione. Una certa componente della popolazione che è disponibile a pagare per un contenuto di qualità e che quindi avrà accesso per il futuro a un contenuto di qualità, e una grossa parte della popolazione che o non vuole o non può spendere soldi per accedere a questo genere di informazione, a cui verrà probabilmente pregiudicato per l'accesso all'informazione di qualità, e rimarrà nel web che è destinato a essere peggio di quello che è oggi. Quindi quello che mi stupisce è che un canale democratico come il web, un canale dove tutti hanno accesso a tutto, dove riesci a fare anche molta formazione, riesci ad avvicinarti a popolazioni e a nazioni dove fisicamente fai anche fatica ad andare, e quindi invii messaggi al pianeta, sia messo in discussione dal fatto che qualcuno ha costruito un tool che per altri scopi ha avuto degli effetti collaterali devastanti. Per questo che all'inizio dicevo, questo può sembrare una cosa poco importante, in realtà le conseguenze, o comunque anche quello che sta accadendo, ci dà motivo di pensare ad un mondo che poi ci riguarda molto, molto da vicino. Un'ultima domanda e un'ultima considerazione. Hai parlato di web, e molte di queste cose stanno accadendo sul web, anche perché sul web c'è più spazio per fare pubblicità. È diverso il mondo mobile, sullo smartphone o quello delle app? Ecco, questa è una rivoluzione, anche questa qua, di questi giorni, che probabilmente è quella che ha fatto nascere l'attenzione verso il problema anche nella casalinga di Voghera. Uh-huh. La Apple, allora, fino a qualche giorno fa sia Apple che Android, quindi le due più importanti, Google nei fatti, le due più importanti piattaforme, l'iOS e Android, su cui girano le app, non lasciavano installare adblocker all'interno dei dispositivi mobili, per cui il tema dell'adblocking è sempre rimasto fuori dal mondo mobile. Quello che è accaduto in questi giorni è che la Apple, con l'iOS numero 9, l'ultima versione, ha liberalizzato la possibilità di creare app che fungessero da adblocker per il suo browser Safari. Sì. E sono nate come i funghi. Come i funghi, e sono state scaricate come i funghi. Sì. Perché proprio il paradosso è che il mobile è quello che in questo momento fa guadagnare meno sia gli editori che i pubblicitari, è quello più in crescita, ma è anche quello dove c'è meno spazio per i banner. Ed è quello dove gli utenti sono molto meno interessati a vederli, proprio perché c'è poco spazio e vorrebbero leggere notizie, leggere testo. E quindi c'è grossa attenzione. Da questo punto di vista il web ormai sta calando tantissimo e sta crescendo tanto il traffico mobile. Con l'apertura da parte di Apple... di questa possibilità di scaricare questa, esatto, il rischio è che adesso l'app deve essere installata e attivata. Se Apple dovesse decidere che rende attiva in automatico una tecnologia del blocking su Safari, uccidendo completamente la pubblicità, Apple sta dicendo al pianeta, a Google e a tutti gli altri operatori nel mercato, che l'unico modo interessante per riuscire a mostrare una pubblicità a un utente che usi uno dei propri device, che sono quelli che sono più appetibili per il mercato pubblicitario in questo momento, deve passare attraverso Apple, perché sarebbe l'unica a poter caricare pubblicità all'interno dei device Apple. A questo punto bisognerebbe anche interrogare le autorità antitrust, che cosa ne pensano. Sì, diciamo che l'antitrust, come l'università, fa fatica a stare dietro a un mondo che cambia. Oggi le pubblicità continuerebbero a transitare all'interno di uno smartphone, all'interno ad esempio dell'app di Facebook, perché il contenuto dell'app di Facebook è governata da Facebook secondo un codice, quindi quella è una cosa su cui Apple non può arrivare. Ma su Safari, che comunque è il browser più utilizzato dagli utenti Apple, perché tendono a non installarsi altri browser, l'eventuale decisione di Apple di bloccare la pubblicità costringerebbe veramente tutto il mondo a rivedere le modalità con cui si negozia con Apple per poter mostrare un singolo banner a uno dei suoi utenti. Apple sta dicendo al pianeta: io capitalizzo la mia base utenti e cerco di proteggerla e gestire attraverso me un mercato pubblicitario nuovo. Sì, non sta ancora accadendo, però potrebbe essere, cioè, una possibilità. Diciamo che con questa apertura gli basta un click su un tasto. Incredibile. Bene, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, ci saranno altre occasioni per riparlare, magari un giorno parliamo anche di motori di ricerca. Volentieri, grazie, ciao Enrico. Questa intervista con Nereo Sciutto continua sulla nostra versione podcast, che sarà disponibile tra poco al termine della nostra puntata, in versione podcast sul nostro sito internet o attraverso le piattaforme. Una versione più lunga, più abbondante, con molte altre considerazioni molto interessanti e per un fenomeno molto interessante. Dunque, a questo punto, visto che abbiamo parlato della disponibilità, poca purtroppo, a pagare per i contenuti della rete, e alcuni di voi diranno: ma i contenuti però spesso sono anche di qualità discutibile. Verissimo, effettivamente bisognerebbe fare un discorso anche sulla qualità dei contenuti, perché per vendere contenuti bisogna fare contenuti di buona qualità. Però, diciamo, la disponibilità non è grandissima, tant'è che Wikipedia, in questo periodo l'avrete visto forse, il banner molto grande che appare quando andiamo su Wikipedia, sta facendo una campagna, la classica annuale campagna di raccolta fondi. Beh, sono pochissime le persone disponibili a pagare. Frida Brioschi è componente di Wikimedia Foundation, che è la fondazione che tiene in piedi tutta la grande macchina di Wikipedia a livello mondiale. Frida, bentornata a 2024. Grazie. Diciamo subito come funziona, come è organizzata Wikipedia. Noi conosciamo Wikipedia perché andiamo sul sito internet magari a cercare un'informazione. Dietro a tutto ciò c'è una fondazione statunitense che si chiama Wikimedia Foundation, giusto? Esatto. La Wikimedia Foundation si occupa di tenere in vita Wikipedia, soprattutto dal punto di vista, diciamo, tecnico. È quella che si occupa di mantenerne i server, di pagare la banda, l'infrastruttura, e di comunicare attorno a Wikipedia e agli altri progetti e farli crescere e andare avanti. Poi tutta la gestione del progetto Wikipedia invece è demandata agli utenti. Sì, e ricordiamo che questo è forse l'unico grande caso di crowdsourcing della rete internet mondiale, poi magari di questo parliamo brevemente. Invece mi interessa sapere che cosa sta succedendo, perché c'è questo banner così grande che chiede di donare soldi alla fondazione americana. Perché la campagna di raccolta fondi annuale che tutti gli anni Wikimedia Foundation fa e che da qualche anno a questa parte si concentra in Italia unicamente in un mese nella parte finale dell'anno, quest'anno il banner è un po' più grande delle altre volte perché dagli user test che abbiamo condotto gli utenti ci hanno risposto che preferiscono i caratteri un po' più grandi, i messaggi un po' più lunghi, li trovano più interessanti e li convincono di più a donare, e quindi quest'anno ce l'abbiamo così. Leggo che meno dell'1% dei 450 milioni di utenti di Wikipedia dona, che è un numero molto basso. Sì, fortunatamente sono dei donatori molto generosi. L'anno scorso la campagna di raccolta fondi online ci ha portato a raccogliere 58 milioni, che sono una parte degli introiti di Wikimedia Foundation, che è una fondazione non profit, mi preme ricordarlo, per cui tutto quanto viene rispeso per far crescere e avanzare il progetto. E le altre fonti di reddito quali sono? Principalmente abbiamo dei grossi donatori che possono essere delle aziende o dei privati e partecipiamo a dei bandi di fondazioni. E quindi tutto ciò serve per mantenere in vita Wikipedia. Non ci dobbiamo preoccupare, non ci sono problemi per il mantenimento di Wikipedia? No, per il momento direi di no. Fortunatamente queste campagne di raccolta fondi, per quanto riscontrino una percentuale minima dei nostri lettori, per il momento sono ampiamente sufficienti. Dicevo prima che questo è probabilmente l'unico grande e globale progetto crowdsourcing di successo della rete internet, anche guardando alla costanza con il quale questo progetto vive, cresce e si modifica. Ci sono, diciamo, il numero di persone e anche la qualità degli interventi nella costruzione delle voci, nella modifica delle voci, rimane costante anche in questo caso? Cioè non solo le donazioni sono costanti, ma anche i contributi degli utenti che scrivono proprio le voci è costante? Sì, sostanzialmente sì, e questa è una cosa che ci dispiace, detto proprio onestamente e sinceramente, perché il numero degli utenti di internet è in crescita, mentre il numero delle persone che scrivono e portano il loro contributo su Wikipedia rimane stabile. E quindi ci piacerebbe crescere, per cui se qualcuno degli ascoltatori volesse partecipare non può che farci piacere. Frida, grazie e naturalmente in bocca al lupo per questa campagna che si conclude quando? Con la fine del mese. Molto bene, quindi c'è un'altra metà del mese per donare soldi, basta anche una piccola quota, anche pochi dollari o pochi euro, giusto? Sì, assolutamente, noi suggeriamo un caffè ogni tanto in meno e una donazione in più a Wikipedia. Poi la campagna si chiude, ma è possibile sempre continuare a donare durante tutto il corso dell'anno. A presto e in bocca al lupo. Crepi, grazie. Si paga naturalmente con carta di credito, i consumatori stanno crescendo nella consapevolezza che oramai si può pagare in modo molto semplice su internet con gli strumenti digitali, che crescono di mese in mese, e cresce anche l'utilizzo della moneta elettronica in mobilità. Nonostante le stupidaggini del governo nell'innalzare questo tetto di spesa, bisognerebbe spingere verso il digital e non remare contro, ma nonostante questo poi i consumatori sono piuttosto intelligenti e molti stanno andando nella direzione opposta. Mi è capitato recentemente di chiedere in farmacia per pagare 3,65 euro se preferivano 50 euro o il bancomat. Mi hanno detto bancomat, perché il mondo sta cambiando. Parliamo di pagamenti digitali in mobilità tramite lo smartphone. Ne abbiamo parlato con Enrico Sponza, che è il presidente del consorzio Movincom. È uno dei primi in Italia ad avere lanciato un sistema di pagamento per smartphone già da qualche anno disponibile. È un borsellino elettronico, lo chiamo io, si chiama BeMove, che è già molto diffuso e molto disponibile in tutta Italia. Come funziona? Enrico Sponza. Allora, Bmove può essere utilizzato da qualunque utente, a prescindere da quale sia il suo telefono, il suo operatore telefonico, la sua carta di credito. Quindi in questo senso è uno strumento assolutamente democratico. L'ABC di Bmove, che è un circuito di pagamento via cellulare, molto facile da utilizzare, ed è una modalità di pagamento adatta ad un contesto di mobilità, quindi quando un utente si trova magari a camminare con uno smartphone in mano, con uno schermo che comunque è piccolo, con i tasti che sono piccoli, e non si può permettere di fare un processo di pagamento come normalmente avviene su e-commerce, dove vengono chiesti tanti dati e ci sono tanti passaggi. C'è una registrazione che viene fatta a monte certificando il numero di cellulare dell'utente. Una volta per tutte, e questo garantisce tra l'altro una maggiore sicurezza, perché dà quella che viene chiamata sicurezza a doppio fattore. E una volta fatta quest'unica registrazione a monte, può fare i suoi acquisti con un PIN e un click, sempre lo stesso PIN, peraltro, quindi più facile da ricordare, su un numero di servizi molto ampio, perché ci sono già più di 1200 sul territorio nazionale. In particolare ci sono oltre 50 città coperte sui servizi di mobilità, quindi l'acquisto di biglietti dell'autobus, della metropolitana, della sosta, dei taxi o dei treni. Potenzialmente io potrei pagare tutto? Assolutamente tutto, cioè oggi abbiamo già, oltre diciamo appunto ai servizi di mobilità, la possibilità di pagare dalla bolletta allo ski pass, al biglietto del teatro, del museo, del cinema, eccetera. Sì. La vostra è una soluzione che permette a un esercente addirittura di crearsi il proprio borsellino elettronico. Questa è una cosa interessante, un'evoluzione di questo mondo di pagamenti che sta diventando sempre più semplice, facile, liquido, mi verrebbe da dire. Sì. Quindi io domattina potrei creare il borsellino di Enrico Pagliarini e offrirlo, che ne so, ai miei ascoltatori. Sì, assolutamente sì. Più che di borsellino, io parlerei di portafoglio, proprio nella metafora, se vogliamo, del portafoglio di pelle che tutti noi abbiamo, cioè un contenitore di diversi strumenti di pagamento, ma non solo, anche di fidelizzazione. Noi nel nostro portafoglio abbiamo la carta di credito, il bancomat, le monete, le carte fedeltà. La logica è la stessa, per cui io creo una mia identità digitale certificata, legata al mio numero di cellulare, quindi certificabile anche successivamente su ogni transazione. Questa identità digitale mobile, in questo caso, associo la carta di credito e domani il bancomat piuttosto che il conto corrente, o un sistema di loyalty di un esercente, che a quel punto appunto può essere il portafoglio digitale emesso da un esercente, nel quale va ad abbinare, oltre al sistema di pagamento, il suo sistema loyalty, e per esempio questo consente di fare in modo che l'utente, quando paga con il portafoglio digitale di quella, non so, grande distribuzione alimentare, automaticamente accumula i punti nel suo portafoglio digitale. Il borsellino, diciamo, se di questo vogliamo parlare, in questa metafora del portafoglio rappresenta un po' la parte di cash, quindi l'equivalente della moneta liquida, e stiamo integrando all'interno di Bmove anche logiche di borsellino elettronico, quindi cosiddetti conti di pagamento, secondo diciamo il glossario SEPA. SEPA, lo ricordiamo, è il sistema europeo dei pagamenti, con tutta una serie di regole anche tecniche per far sì che l'Europa sia un unico mercato dei pagamenti. Tra l'altro, proprio grazie alla modernità di questo sistema stanno nascendo tanti servizi in questo mondo. Poi alcuni avranno successo, altri meno, però è una indicazione molto importante, molto interessante. L'abbiamo detto anche in una recente puntata di 2024, il settore del cosiddetto fintech, cioè la tecnologia al servizio della finanza, quindi anche dei pagamenti in mobilità, sta crescendo molto in Europa. Ci sono investimenti molto molto importanti. Bene, è tutto per questa puntata, questa è la nostra versione podcast. Abbiamo ascoltato l'ultima delle nostre interviste, ovvero Enrico Sponza, che è presidente del consorzio Movincom, che ha creato B-Move, questo sistema di pagamento in mobilità. Visto che sono molto belli e divertenti questi sistemi e anche molto comodi, io consiglio di provarli, perché basta avere un sistema di pagamento tradizionale, lo si collega allo smartphone tramite l'applicazione, quindi senza aggiungere ulteriore spesa, ma si può ad esempio pagare tanti servizi in mobilità, trasporti, ma insomma ci sono tanti altri servizi o comunque anche tante altre modalità di pagamento, ma sempre basate sullo smartphone. È anche un modo per capire se ci piace, se non ci piace, che cosa ne pensiamo di questa evoluzione. Vi ricordo che la prossima settimana saremo a SMAU Milano, ci sarà da mercoledì a venerdì dal 21 al 23 alla Fiera Milano City, quindi la vecchia sede della Fiera di Milano, raggiungibile molto facilmente anche con la metropolitana, quindi potete utilizzare i mezzi pubblici. Saremo lì tutti i giorni, c'è uno studio di Radio 24, alcune trasmissioni di Radio 24 andranno in diretta da SMAU, noi registreremo, realizzeremo uno speciale, una puntata speciale per giovedì e la nostra classica puntata del venerdì da SMAU, quindi giovedì pomeriggio e venerdì pomeriggio realizzeremo queste puntate, ma poi io sarò lì a passeggiare tra gli stand, ad ascoltare le voci di chi parla durante SMAU, chi presenta le proprie startup, insomma è sempre un appuntamento molto divertente e molto interessante. Ringrazio come sempre i nostri ascoltatori che continuano a scriverci dicendoci sostanzialmente come ascoltano 2024 in versione podcast. Fateci pubblicità, perché è importante il passaparola, cioè dire: oh, guarda che sto ascoltando un programma molto interessante, speriamo che lo sia molto interessante, con alcuni spunti per il tuo business, per il tuo lavoro. Penso che molte delle nostre interviste, grazie ai nostri esperti, si facciano accendere delle lampadine e magari uno si fa venire delle idee anche per le professioni. Avete sentito quello che ha detto prima Nereo Sciutto? Beh, se uno ha un figlio che deve scegliere un percorso di studi, potrebbe raccogliere alcune idee per studiare certe cose piuttosto che altre. Bene, io sono Enrico Paglierini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche la nostra pagina Facebook per dialogare con noi, parlare con noi, oppure l'account Twitter, sia il mio che quello della trasmissione. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.